con Francesco Zizzola di 10B Photography per presentare la WordPress Photo Exhibition 2019 a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 25 aprile al 26 maggio 2019. Francesco, ben trovato. Grazie per la possibilità di spiegare più di questa mostra, di questa collezione di fotografie che vengono da tutto il mondo e che ogni anno presentiamo a Roma, in questa bellissima sede del Palazzo delle Esposizioni, e ogni anno presentiamo ovviamente le fotografie diverse, ogni anno che vengono riconosciute essere le più interessanti da una giuria competente che si riunisce ogni anno ad Amsterdam, città dove ha sede la fondazione WordPress Photo, che da più di 60 anni si occupa appunto di selezionare, raccogliere, individuare in tutto il mondo quali sono i fotogiornalisti che più hanno, o che meglio hanno rappresentato le notizie che si sono susseguite nell'anno passato. Quanti sono gli scatti esposti? Più di 100 e vengono a riassumere una realtà molto complessa, ovviamente non possono essere, diciamo, rappresentativi di tutta la produzione, come dicevamo, è molto un'interpretazione della giuria, di quello che loro ritengono essere, diciamo, le migliori interpretazioni del giornalismo per immagini. Ci sono state più di 4.700 applicazioni, cioè più di 4.700 fotografi hanno sottomesso alla fondazione le loro opere da più di 129 paesi. Alla fine le immagini che la giuria ha dovuto, diciamo, guardare, vedere, sono più di 78.000. Come è allestita la mostra? È suddivisa per aree tematiche? La mostra procede per categorie, perché il concorso prevede diverse categorie e sono le tradizionali, sono ovviamente più legate alle hot news, alla cronaca stretta, diciamo. Poi però ci sono interessanti sezioni dove c'è la possibilità di raccontare il mondo al di là dei fatti, diciamo, di cronaca più urgenti, che sono per esempio le categorie contemporary issues o environment, che è sempre più diventa, diciamo, una sezione cruciale per capire cosa sta succedendo nel mondo. Poi ovviamente abbiamo detto le general news, e la novità quest'anno è che è stato introdotto per esempio un premio interessante sui progetti a lungo termine, quindi che dà possibilità a fotografi che pensano di non poter raccontare una storia in modo approfondito in poche settimane o in pochi mesi, e quindi si prendono il tempo che serve per appunto approfondire molto un argomento, può essere anche nell'arco di 3 anni. E abbiamo una bellissima sezione di natura, è stato reintrodotto dopo qualche anno di assenza la sezione dei ritratti, portraits, poi chiaramente c'è anche quello che è per definizione uno degli aspetti più interessanti e più piacevoli del giornalismo fotografico, quindi i giornalisti che si occupano di sport, anche qui con bellissime storie che vengono a raccontarci aspetti meno conosciuti delle pratiche sportive che si svolgono intorno al mondo. E poi ovviamente, come dicevamo, gli spot news, cioè la cronaca stretta e più cocente dei fatti più significativi che si svolgono nel mondo. Quest'anno una delle foto presenti in questa categoria ha appunto vinto il premio più importante, il Picture of the Year, la foto dell'anno, ed è una fotografia scattata da un giornalista che lavora per un'agenzia americana, John Moore, e che ha approfondito come sua modalità, è conosciuto per questo in modo molto preciso, una parte della vita politica del suo paese, gli Stati Uniti, e quindi ha focalizzato la sua attenzione molto sulla questione dei migranti e sulle nuove politiche del governo americano a proposito appunto del tema delle migrazioni, soprattutto dal Centro e Sud America. Si è quindi spostato molte volte sulla frontiera e ha seguito sia le famiglie che provano a passare diciamo, il muro, i controlli per entrare negli Stati Uniti, che i pattugliamenti delle forze di polizia lungo il confine. Durante una di queste sue coperture ha potuto scattare la foto che poi è diventata appunto foto dell'anno e di cui si parlerà molto, credo, perché è una foto che è già diventata virale negli Stati Uniti e in tutto il mondo in qualche modo, e rappresenta una bambina in piedi con una la maglietta rossa, e si intravede un dettaglio della macchina della polizia che fa il controllo alla frontiera, e si vede di fronte a questa bambina che piange disperatamente una signora che, anche dall'immagine, solo senza leggere la discaria, possiamo capire essere la madre, che è costretta a appoggiare le mani sulla macchina e viene perquisita da un agente armato. La bambina è disperata, piange, e si intuisce che questo è il momento, il fatto che più ha scosso il fotografo, perché si riesce a intuire la commozione, il sentimento di scoramento, di rabbia che il fotografo ha provato di fronte a questa scena. La didascalia è molto, appunto, esaustiva e racconta, appunto, tutta questa immagine, contestualizzandola nella situazione politica americana in questo momento. È una foto molto attuale, è una foto molto precisa, al primo grado racconta esattamente un avvenimento e nello stesso tempo, al secondo grado, ci interroga sulla disumanizzazione di certe politiche che vogliono provare a cambiare il corso della storia senza considerare la dignità e i diritti degli esseri umani. Nella fase digitale che stiamo vivendo, come si sta sviluppando la tecnica fotografica, Francesco? Sono anni che vado ripetendo che per la prima volta nella storia della fotografia, che è una storia non lunghissima rispetto a quella di tutti i linguaggi umani, una delle più recenti, non abbiamo neanche raggiunto i 200 anni dalla sua invenzione, per la prima volta appunto stiamo assistendo a una diffusione reale del linguaggio fotografico in tutto il mondo, questo grazie a queste piccole lenti che sono inserite nei telefoni. Una ricerca delle Nazioni Unite dice che ci sono più telefoni che esseri umani ormai al mondo, e che la gran parte di questi telefoni hanno appunto l'obiettivo, quindi sono in grado di registrare informazioni visive. Questo fa sì che oggi nel mondo si registrano in modo inedito, direi, un numero sempre maggiore di persone che usano l'immagine per comunicare qualunque cosa, naturalmente, o per auto rappresentarsi. L'autoscatto viene definito in inglese selfie, e quindi sappiamo tutti cosa questo sta comportando anche nella società come capacità di autorappresentarsi. Il punto è che, come sempre, quando un linguaggio nuovo si affaccia al scenario mondiale, globale, si dice ora, c'è bisogno di un periodo di apprendimento. Questo periodo di apprendimento è in corso, e quindi c'è una enorme quantità di immagini che hanno poca capacità di trasmettere contenuti che rimangono sulla superficie. Questo ovviamente è evidente a tutti, però inizia a essere evidente anche che c'è, percentualmente minore, però c'è sempre una maggiore quantità anche di immagini di qualità. Le persone credo abbiano desiderio di apprendere meglio, di comprendere meglio quali sono le dinamiche, i meccanismi che sottendono alla costruzione di una comunicazione per immagini, e questo spiega forse anche il successo che di solito registriamo in diverse città del mondo. La mostra World Press Photo viene esposta in più di 100 città, perché appunto abbiamo notato come il pubblico che visita le mostre World Press Photo non sia generalmente un pubblico soltanto interessato agli addetti ai lavori, soltanto interessato al giornalismo fotografico, ma proprio sia desideroso di capire come la realtà, quindi quello che ci circonda, possa essere tradotto in immagini in modo significativo. In base a questo che dici, ognuno oggi può essere testimone, ciò nonostante la categoria dei giornalisti è quella ancora più a rischio tutt'oggi, in particolare i reporter da zone di guerra. Sì, però non è più un rischio esclusivo loro, perché appunto in società particolarmente arretrate dal punto di vista delle libertà civili e democratiche, questi strumenti sono molto diffusi, come sono anche diffuse le tecnologie di diffusione, appunto, di trasmissione del segnale, dei dati e quindi anche dei contenuti. Certo, ci sono modalità che permettono il controllo, pensiamo per esempio alla realtà cinese, fra le tante naturalmente, certo. Però si stanno già registrando incidenti dovuti appunto alla trasformazione in testimoni visivi di semplici cittadini muniti di cellulare, quindi c'è un interessante anche riflessione da fare su questa nuova realtà dove certamente i giornalisti, i fotogiornalisti sono più a rischio perché sono anche quelli che più precisamente riescono a individuare quali sono i punti sensibili, i punti critici di determinati avvenimenti o in determinate società e quindi si trovano a essere spesso più esposti di altri, però e appunto anche la presenza, tra virgolette, casuale di testimoni visivi in luoghi dove magari sta succedendo qualcosa che non dovrebbe essere visto, ecco, quello comporta naturalmente anche alcune criticità che si sono rivelate essere purtroppo in alcuni casi anche drammatiche. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più sulla mostra, ma anche sulla tua associazione? Per la mostra c'è il sito ovviamente della fondazione che è worldpressphoto.org oppure worldpressphotoroma.it. Poi abbiamo per l'associazione 10B Fotografi sia la pagina Facebook 10B Fotografi che la pagina di Instagram più propriamente legata alle immagini, quindi 10B Fotografi su Instagram. Allora ricordiamo la World Press Photo Exhibition 2019 a Roma, Palazzo delle Esposizioni, 25 aprile 26 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Zizzola. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie per lo spazio.